Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono stati diffusi dati relativi a denunce e casi di violenza registrati negli ultimi mesi. Diverse le iniziative in regione, tra queste a Udine un flash mob organizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica nel prendere coscienza sul problema, all'auditorium dello Zanon l'evento Pensando a Nadia, dedicato alla figura di Nadia Orlando, ex studentessa dell'istituto, vittima di femminicidio. A Trieste è organizzato un confronto sulla condizione delle persone con disabilità in regione, al centro il tema della costituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità nel forum degli stati generali. Tra le opere viarie in attesa del via libera definitivo ai lavori c'è la circonvallazione sud di Pasiano di Pordenone, sempre più necessaria per snellire la viabilità nell'area del mobile. Un'anziana maestra che ha insegnato alle primarie a Pordenone ha deciso di chiamare a raccolta i suoi vecchi alunni ormai cresciuti per ricordare insieme i tempi trascorsi nell'aula della scuola a tanti anni di distanza. Le 12:31 minuti e 20 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bears e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 25 novembre. Oggi è dunque la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche nella nostra regione sono diverse le iniziative proposte per sensibilizzare la popolazione su un fenomeno che continua a registrare numeri in continua ascesa. Questa mattina la Questura di Trieste ha fornito un quadro relativo a denunce e casi di violenza registrati negli ultimi mesi. È andata proprio così, lo chiediamo in questo momento, appunto la conferenza stampa dovrebbe essere finita. Daniele Lettig l'ha seguita per noi, che cosa è emerso? Un incremento delle richieste e delle denunce di reati che ricadono nell'ambito delle violenze di genere, compresi i cosiddetti reati spia come i maltrattamenti e lo stalking, indice di una maggiore consapevolezza e fiducia negli strumenti legislativi e di tutela oggi a disposizione. È quello che si registra in provincia di Trieste, come ha detto questa mattina il questore Pietro Ostuni, illustrando le iniziative di prevenzione della polizia che vengono effettuate lungo tutto l'anno, ha ricordato, e non solo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. In provincia, ha spiegato Ostuni, quest'anno sono stati 48 i provvedimenti di ammonimento comminati contro i 28 del 2023, più del doppio. Si tratta di provvedimenti con cui poi si invita i soggetti maltrattanti a recarsi presso le associazioni che aiutano a recuperare gli autori di violenze. Il 70% di chi lo fa a livello nazionale, ha spiegato Ostuni, non incorre in recidive. L'identikit degli autori di violenze, ha detto ancora, è trasversale. Si tratta di soggetti appartenenti a tutte le fasce sociali e a tutte le fasce d'età, si va dai minorenni agli ultrasettantenni, anche se la fascia più delicata e maggiormente interessata è quella tra i 25 e i 50 anni. Anche a livello di nazionalità si tratta di un fenomeno trasversale, con qualche picco in alcune famiglie straniere. La paura maggiore da parte delle donne che denunciano è quella di non farcela economicamente, quindi la paura economica, ha ricordato Ostuni, è quello che frena le richieste. Su questo, ha concluso, bisogna intervenire. Ringraziamo Daniele Lettig per averci aggiornato in diretta e proseguiamo con gli altri servizi del nostro giornale radio. A Udine è terminato poco fa un flash mob organizzato dalla Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità FIALS nella zona adiacente al Tribunale in via Largo Ospedale Vecchio, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica nel prendere coscienza sul problema. Ad un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin sono morte altre 106 donne in Italia. Continua purtroppo ad essere importante manifestare tutti, donne ma anche uomini, perché la violenza finisca. La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità si è ritrovata davanti al Tribunale di Udine, uno dei luoghi simbolo di quanto spesso non viene fatto abbastanza. Simona Trombini, FIALS Udine. Io genitore, io mamma, io papà, devo insegnare a mio figlio a non essere violento con le donne e a mia figlia a non subire violenza. È una cultura che ci sta sotto per poter fare che non esista più una violenza né fisica né psicologica sulla donna. La consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Civica, Simona Liguori, ricorda che oggi più che mai è fondamentale non solo denunciare ma anche educare e sensibilizzare per prevenire, affinché nessuna donna debba più sentirsi sola o intrappolata nella paura. Importante esternare ogni segnale e l'appello di Lucrezia alle donne più giovani. Purtroppo rimanendo in silenzio non si arriva a niente, quindi l'importante messaggio che io posso appunto mandare alle mie coetanee è sempre quello di comunicare qualsiasi cosa, anche il più semplice gesto, anche il più piccolo gesto che magari fa storcere un po' il naso, deve essere comunicato, perché attraverso la comunicazione si può appunto trovare soluzioni. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E Udine, all'Auditorium Zanon, è giunto alla sua ottava edizione il progetto di educazione ai sentimenti e all'affettività intitolato Rispettami per la lotta contro gli stereotipi di genere. In questa giornata particolare l'evento ha avuto come tema Pensando a Nadia ed è stato dedicato appunto alla figura di Nadia Orlando, l'ex studentessa dell'istituto, vittima di un femminicidio nell'estate del 2017. Nel 2017 moriva per mano del suo fidanzato Nadia Orlando, a soli 21 anni, una notizia che sconvolse l'istituto Zanon di Udine, dove lei si era diplomata un paio di anni prima, e proprio in sua memoria ci sono alcune installazioni come l'angolo di Nadia nella biblioteca e un pannello a lei dedicato all'ingresso, dove sono presenti dei petali rossi e delle scarpe rosse, proprio per ricordare in questi giorni l'importanza della lotta contro la violenza sulle donne. L'Istituto Zanon ha organizzato una giornata speciale oggi con il coinvolgimento di molte ragazze e molti ragazzi. Tiziana Tibalta ha organizzato questo evento. Allora, che messaggio date oggi? Di cosa parlate? Oggi cercheremo di dare uno spunto iniziale di riflessione agli studenti presenti, che possa poi loro animare dei lavori successivi nel corso dell'intero anno scolastico, tesi sempre alla riflessione, all'educazione ai sentimenti contro la violenza di genere. Appunto, l'idea è quella di partire da qui, ma continuare a lavorare per l'intero anno scolastico e chiudere il tutto con un evento finale che sarà sabato 4 maggio, nel quale verranno poi postati e inseriti tutti i lavori dei ragazzi realizzati nell'intero anno scolastico sul blog Mai più Barba Blu. Tra gli ospiti dell'evento DJ Tubet, che spiega ai ragazzi come l'hip hop tratta il tema della violenza di genere, una riflessione critica su questo genere musicale. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora altri appuntamenti in tema della giornata. Pordenone, nella conferenza Sempre più violenza, società malata, informazione al palo, sono state analizzate le cause e proposti i rimedi per una cultura dell'antiviolenza e del rispetto tra le persone, particolarmente quella relativa a donne e giovani. A Trieste la Fondazione Burlo Garofalo ha organizzato l'evento formativo Formazione contro la violenza di genere, come riconoscere, prevenire e combattere la violenza sulle donne, nella sede dell'università. E ancora a Trieste la Polizia di Stato ha istituito un punto informativo mobile nelle principali piazze cittadine con un gazebo della polizia ferroviaria presso la stazione centrale e la distribuzione di volantini della campagna Questo non è amore, tradotti in italiano e sloveno, negli esercizi commerciali. E in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne alla scuola edile di Trieste, domani e dopodomani la Casa Internazionale delle Donne organizza una 2 giorni di sensibilizzazione e confronto sul tema con i ragazzi. Ce ne parla una delle promotrici, Tiziana Giannotti. Sono ragazzi molto recettivi, molto stimolanti, e hanno voglia di conoscere nuovi strumenti e cose nuove. Possono avere anche un atteggiamento un po' di superiorità all'inizio, come dire a me non serve questa cosa, no, cosa ci vengo a fare. E invece poi parlando insieme e riuscendo a raccontare anche in qualcuno le proprie esperienze personali, hanno voglia di raccontarsi e di capire anche l'altro, perché spesso sono molto chiusi su loro stessi, no? Come la maggior parte degli adolescenti. Questi percorsi servono anche a dare un aiuto a raccontarsi. E anche l'anno scorso è capitato nella seconda giornata che i ragazzi alla fine raccontassero una loro esperienza personale. Questa è la cosa più importante, e trovassero negli altri la solidarietà, che è ancora più importante. Quali esperienze e quali vissuti emergono? Emergono vissuti di violenza sia familiare che di strada. Io faccio sempre l'esempio anche con questi ragazzi, dico: una donna a qualsiasi età, quando torna a casa tardi la sera, ascolta se ci sono dei passi dietro a lei. E questo è un livello di attenzione che le donne devono avere, hanno per istinto sempre. Non è bellissimo. Ai ragazzi molto spesso questo non succede. Cioè, mio figlio, che è un uomo di 45 anni, un bel pezzo d'uomo, non si è mai posto questo problema. Però tutta la vita le donne devono invece pensare anche a questo. E quindi se qualcuno, io dico sempre ai ragazzi, non, nessuno vi incolpa, nessuno vi giudica, agli uomini, ai compagni, agli amici, noi chiediamo aiuto, veniteci a sostenere e a proteggerci da quelli che non sono uomini. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E anche nell'Isontino in questi giorni si susseguono diverse iniziative e manifestazioni culturali incentrate sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione della violenza contro le donne. A Staranzano e a Gradisca si sono svolti due eventi in tema. Com'è rivestita? La domanda che tantissime donne vittime di violenza hanno dovuto affrontare nel loro dolore dà il titolo alla mostra allestita nella Sala Perez del comune di Staranzano, e a rispondere sono proprio gli abiti che alcune donne indossavano nel momento in cui sono state aggredite, tra questi l'agghiacciante presenza di indumenti infantili. Antonella Venturelli dell'associazione Da Donna a Donna. Com'è rivestita? Sottende in realtà un pensiero comune, che è te la sei cercata, e far pensare come in Italia si muore anche di linguaggio. L'abbiamo visto, lo ha citato Michela Murgia nel suo libro Stai zitta, e riportando come la donna in generale venga sminuita proprio parlando. La cultura in cui siamo intrisi richiede un grosso lavoro di evoluzione. A Gradisca invece installazione artistica urbana sul centralissimo viale Regina Elena, immagini che andranno a susseguirsi con interpreti diversi per un messaggio di 365 giorni all'anno. Sentiamo l'artista visiva Giulia Spanghero. Il soggetto che io rappresento è un fiore, ma può essere anche una macchia di sangue, sono anche due gambe di donna unite ed è una lacrima che scende. Ho voluto lanciare un ponte con l'osservatore, e ogni donna è un mondo a sé stante, quindi ogni donna avrà il suo pensiero rispetto a questo mio lavoro. Mara Fella, fotografa indipendente. Questa fotografia vuole essere un invito ad adottare una prospettiva, perché è solamente cambiando punto di vista che riusciamo poi ad allenare l'empatia e a sviluppare un senso di solidarietà. Gradisca di Sonzo, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento, un momento di confronto sulla condizione delle persone con disabilità in regione, con al centro il tema della costituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e l'evento degli stati generali disabilità in Friuli Venezia Giulia organizzato a Trieste nella sala polifunzionale dell'ITIS in via Pascoli, cui ha partecipato anche il presidente nazionale della Federazione Superamento Handicap, Vincenzo Falabella. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più attenzionate al tema della disabilità. La legge 16 del 2022 è un esempio riconosciuto a livello nazionale. L'obiettivo principale degli Stati Generali della Disabilità è approfondire la costituzione dell'osservatorio regionale. Giampiero Licino, presidente FISH Friuli Venezia Giulia. Rispetto ad altre regioni siamo sicuramente molto avanti, tant'è vero che lo stesso Ministero ha preso e sta copiando dalla regione Friuli Venezia Giulia. Stiamo andando bene, importante è che venga costituito questo osservatorio, che sia secondo il metodo già collaudato a livello nazionale, che è già previsto sia dalle norme nazionali che dalla norma regionale, e che sia veramente un modello di dialogo, di proposta, di ripartenza per la massima inclusione delle persone con disabilità. L'osservatorio porterebbe ulteriore slancio e programmazione sul tema in una regione già all'avanguardia, lo ha sottolineato Mario Brancati, presidente della Consulta regionale dei disabili, riconoscendo come le associazioni sono ascoltate dalla politica regionale e partecipino al processo decisionale. Qui si nota un'Italia differente, bisogna darne atto, ha ribadito Vincenzo Falabella, presidente nazionale della Federazione Italiana per il Superamento della Disabilità. È una regione che negli ultimi anni ha attenzionato i bisogni specifici dei propri cittadini con disabilità. La legge 16 ne è la testimonianza, ci sono altri temi secondari che diventano prioritari, penso all'intelligenza artificiale che avrà un impatto concreto e sicuramente migliorativo sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre cittadine, a maggior ragione quando parliamo di cittadini con disabilità. Parte del programma dell'incontro metterà in risalto le buone pratiche, tra queste il prossimo ospedale dedicato alla riabilitazione a Gervasutta, importantissimo a livello regionale. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.45, passiamo al meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianure e costa, sereno in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 10 gradi e mezzo, Gorizia 9 gradi e mezzo, Pordenone 9, Udine 8 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo e Tarvisio 4 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra e Piancavallo 3 gradi, Sappada 2 gradi sotto lo zero, sul Monte Zoncolane e sul Monte Lussare dunque in quota 0 gradi, sulla costa a Legnano e a Grado 8 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio sulla zona montana, specie in quota, cielo in prevalenza poco nuvoloso, su pianura variabile, sulla costa nuvoloso, verso sera possibili piovigine o deboli piogge sulle zone orientali, specie sul Carso e a Trieste. Lo zero termico sarà molto elevato, oltre i 3.500 metri di quota, con inversione termica nei bassi strati. Nelle ore notturne possibile presenza di foschie nel fondo valle tarvisiano di nubi basse. Per domani sulla zona montana previsto cielo variabile, nuvoloso al pomeriggio, su pianura e costa da nuvoloso a coperto, dal pomeriggio sera saranno possibili piogge in genere deboli, specie sulla costa e sulle zone orientali, possibile presenza di foschie. Oggi è in calendario l'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dell'Università di Udine, il 47esimo dalla sua nascita. Ospite d'onore Maurizio Martina, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. La cerimonia si svolgerà dalle 14.30 nell'aula Marzio Strassoldo del Polo Economico Giuridico dell'Ateneo in via Tomadini. Il programma prevede, dopo l'ingresso del corteo accademico, la relazione del rettore Roberto Pinton. Si proseguirà poi con gli interventi della rappresentante degli studenti, Rachele Ughetti, presidente del Consiglio degli Studenti, e del personale tecnico-amministrativo, Loris Menegon, componente del Senato accademico. Sarà il presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli, a premiare i nuovi maestri del commercio del Friuli Occidentale. L'evento, promosso da Associazione Commercio Pordenone nell'ambito del meeting Connessioni 2024, valorizzare la tradizione, innovare il presente, ispirare il futuro, si terrà oggi con inizio alle 15.30 al Centro di Documentazione e Catalogazione dei Magredi a San Quirino. Ed è prevista alle 17, sempre di oggi, la seduta del Consiglio Comunale di Trieste, nella quale si discuterà delle prospettive future riguardanti la cabinovia metropolitana. Parliamo ora di infrastrutture viarie, in particolare della circonvallazione sud di Pasiano di Pordenone, opera sempre più necessaria per snellire la viabilità nell'area del Mobile. 3,5 chilometri di tracciato, 5 rotonde e un ponte di 50 metri sul fiume Fiume per un importo complessivo di oltre 24 milioni di euro. La circonvallazione sud di Pasiano, opera a lungo attesa, consentirà di migliorare la viabilità della zona produttiva del Mobile e di sgravare il centro abitato dal traffico pesante. Oggi nella sede della Regione Pordenone è stato presentato il progetto definitivo approvato, che è stato aggiornato secondo le più recenti normative delle costruzioni e del rischio idraulico. Il progetto prevede anche aree di mitigazione ambientale con barriere acustiche, 370 nuove alberature, 2000 metri quadri di specie arbustive in prossimità delle abitazioni. È stato illustrato anche il cronoprogramma. Nel 2025 sarà completato il progetto esecutivo e avviata la gara d'appalto, 2026 consegna dei lavori, che saranno terminati nel 2029. L'assessora alle infrastrutture Cristina Mirante ha assicurato la copertura finanziaria dell'opera con fondi in parte già presenti, altri che saranno riallocati, altri ancora che saranno destinati con l'assestamento estivo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora vi raccontiamo un'iniziativa del tutto particolare. Un'anziana maestra che ha insegnato l'elementare a Pordenone ha deciso di chiamare a raccolta a casa sua i suoi vecchi alunni ormai cresciuti per ricordare insieme i tempi trascorsi nella scuola a tanti anni di distanza e rinsaldare così un legame speciale. Ha affidato il desiderio di poter rivedere i suoi alunni dopo quasi 50 anni a un videomessaggio fatto arrivare a tutti da una di loro. Una voglia matta di vedervi. La maestra vuole vederci. Proprio come fareste un bellissimo regalo. All'invito della maestra Serafina Milani, oggi 95enne, una vita da insegnante alle elementari per vocazione, hanno risposto tutti. Sono arrivati a casa sua a Pordenone anche da molto lontano per ritrovarla e restituirle l'abbraccio del primo giorno di scuola, emozionati come allora. Io arrivo esattamente dalla Foresta Nera. Bella emozione, indescrivibile, dato che lei mi ha trasmesso delle bellissime emozioni, la mia vita è stata una vita piena di emozioni. La portano nel cuore, dalle loro parole si coglie appieno quanto di buono ha seminato, un'esperienza che ha lasciato il segno anche in chi, come Claudia, oggi fa il suo stesso mestiere. L'umanità, l'inclusione, la capacità di capirci, una persona meravigliosa, mi ha dato tutto e questo modo di insegnare io lo trasferisco, cerco di trasmetterlo, certo, ci provo con i miei allievi. Scelte educative a quei tempi rivoluzionarie come quando col rapimento Moro portò in classe una radio per seguire gli eventi insieme. Ancora adesso che ho dei bambini piccoli ogni tanto gli parlo di una maestra che ho avuto alle elementari tanti anni fa che ci faceva sedere ad ascoltare la musica ad occhi chiusi, pensare a che cosa ci passasse nella mente in quel momento. Un punto di riferimento importante lo scrive in un tema anche Learco, bambino disagiato che fra quei 21 della quinta B della scuola elementare Rosmini di Villanova, quartiere eterogeneo sorto con la Zanussi alla periferia della città, oggi non c'è più. È come rivedere una seconda mamma che ci ha insegnato a essere tutti uguali e a volerci tutti bene anche se qualche bambino era un po' più difficile e lei ci diceva sempre che nessun bambino è perduto. Devo dire grazie alla maestra perché ha saputo coinvolgere e trovare in ognuno di noi un raggio di sole. Congedandoli ha donato loro le sue memorie di maestra d'altri tempi e di quel legame speciale, con anche la poesia che ha scritto per loro alla fine della quinta, per salutarli. Come una rondinella che lascia il nido, ti siano propizi i venti. Ora, libera nel tuo volo, porterai il ricordo di colei che ti insegnò a volare. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport con il calcio, impegno di campionato per l'Udinese che affronterà questa sera in trasferta l'Empoli con inizio alle 18.30. Mister Rugnaice non nasconde le insidie della gara che arriva dopo 3 sconfitte consecutive, ma neanche il suo ottimismo per l'esito finale. Il nuovo incontro della rassegna Packwood itinerari di letteratura e giornalismo prosegue con la presentazione del libro Sport e Costituzione di Franco Del Campo, direttore del Centro Federale della Federazione Nuoto a Trieste, nell'incontro intitolato Con disciplina e onore. Appuntamento a Trieste al Teatro Miela alle 18. Abbiamo intervistato Del Campo per chiedergli quali sono i punti di contatto tra sport e Costituzione. Credo che il rapporto tra sport e Costituzione sia molto importante perché può diventare una specie di educazione civica, ma non teorica, molto ma molto concreta, soprattutto per i giovani ma non solo. E allora andando a cercare il rapporto che bisogna cercare nel profondo tra sport e Costituzione, possiamo partire sin dall'inizio dall'articolo numero 1, per cui ci si basa sul lavoro. Intorno al lavoro cimentiamo l'impegno, la dedizione, il rispetto delle regole che sono tipici di qualsiasi allenamento sportivo. Ecco allora che sport e Costituzione si ritrovano interno al nucleo fondamentale per la nostra individualità e per la nostra società anche del lavoro. Un altro riferimento che secondo me è molto bello e importante è l'articolo 54 che ci impone e consiglia di svolgere la nostra attività, lo consiglia per quanto riguarda chi ha incarichi pubblici, ma vale la pena per tutti quanti, di svolgere la propria attività con disciplina e onore. Disciplina e onore sono due concetti che possono essere anche stati deformati nel corso della storia, ma se recuperiamo il loro significato originario, sono fondamentali. Disciplina come autodisciplina, quella che noi ci imponiamo per fare un'attività fisica, sportiva, faticosa, impegnativa, in cui si vince ma tante volte si perde, e l'autodisciplina è quella che ci fa andare avanti. Gli spettacoli alle 20.30 al Teatro Verdi di Trieste, si alzerà il sipario sulla 93esima stagione della Società dei Concerti di Trieste con un concerto evento che vedrà protagonista Jordi Savall, musicista di fama mondiale, ambasciatore dell'Unione Europea per il dialogo culturale e ambasciatore UNESCO per la pace. La delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine ha organizzato per oggi e domani un doppio appuntamento teatrale di orientamento scolastico per genitori e giovani delle classi terze che frequentano la scuola secondaria di primo grado del comprensorio montano. Lo spettacolo per i genitori avrà inizio oggi alle 18 nella sala riunioni della comunità di Montagna della Carnia in via Carnia Libera a Tolmezzo. L'evento, che si svilupperà sotto forma di talk show, prevede la partecipazione di due imprenditori che illustreranno le opportunità offerte dalle aziende del territorio e di una psicologa esperta in orientamento scolastico. Oggi sono migliaia le persone ridotte in povertà che hanno bisogno di un aiuto, a iniziare dalle famiglie e dalle persone sole senza una rete sociale di supporto. Con Operazione Pane insieme ai frati delle 20 mense francescane in Italia è possibile donare un pasto e aiutare una persona in difficoltà. Fino al 1° dicembre è possibile donare 2 euro inviando un sms al 45538, oppure puoi donare 5 o 10 euro con una chiamata da telefono fisso al numero 45538. A Pordenone i servizi a scuole, trasporto e ristorazione scolastica, uffici nido si spostano da Piazza della Motta al municipio con accesso da Piazzetta Caldrari 1 e nuovi orari di apertura. Domani martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre uffici chiusi per trasloco. È stato scritto, diretto e interpretato dallo scrittore Paolo Cognetti il film Fiore Mio, che da oggi sarà proiettato a Udine al Cinema Visionario alle 15 e 19.30 e a Pordenone a Cinema Zero alle 21. Sul grande schermo il Monte Rosa, narrato come luogo geografico, ma soprattutto luogo del sentire e luogo della comprensione di quanto abbiamo intorno, a iniziare dalla bellezza dei paesaggi e dei ghiacciai ormai destinati a scomparire o a cambiare per sempre a causa del cambiamento climatico. Altri appuntamenti culturali di oggi per il ciclo Storia in città, resistenza e liberazione in Europa, il docente di storia all'Università di Trieste Stefano Santoro interverrà sul tema la resistenza nell'Europa sudorientale a Trieste nell'aula magna dell'Università in via Baciocchi dalle 18. La conferenza intitolata L'America e il mondo, secondo Trump, cosa cambia per l'Europa? Conterà tra i relatori Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali, con Mauro Barberis, docente di filosofia e teoria del diritto all'Università di Trieste, e Mitja Jaluz, docente di procedura penale all'Università di Genova. A Trieste, al Circolo della Stampa, in Corso Italia, alle 17.30. Il Comune di Trieste informa che nella settimana iniziata oggi e fino a venerdì 29 novembre sarà possibile trovare l'ufficio mobile del censimento per l'assistenza alla compilazione del questionario nelle piazze con orario 9.13, oggi in Piazza della Borsa, martedì, domani in Campo San Giacomo in concomitanza con il mercato, mercoledì 27 novembre a Borgo San Sergio in concomitanza con il mercato, giovedì 28 novembre in Piazza d'Unità d'Italia, venerdì 29 novembre in Piazza Sant'Antonio Nuovo. Partecipare al censimento è un obbligo di legge la cui violazione prevede una sanzione. La compilazione deve avvenire entro lunedì 23 dicembre. I dati conferiti sono tutelati dal segreto statistico inviolabile. Per tutte le informazioni inerenti il censimento, l'indirizzo è https://statistica.comune.trieste.it. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanotte e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle ore 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.